Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Ci troviamo al Nightclub Café Society, nel Greenwich Village a New York. È il 1939. I Magnifici Destini si è introdotto oggi con un incredibile salto spazio-temporale in un luogo straordinario, dove sta per accadere qualcosa di unico. Ecco, sta per succedere. I camerieri incrociano le braccia, deponendo i vassoi. Da questo momento non verranno più serviti né drink né pietanze. È il segnale. Le luci si spengono e si illumina un unico occhio di bue. Nel suo centro preciso si materializza quasi dal nulla una figura femminile, elegante, austera, vestita di scuro, con gli occhi rigorosamente chiusi. La musica ha inizio. La donna è al centro dell'attenzione di tutti i presenti, non vola una mosca, eppure di gente ce n'è tanta questa sera. Ma stanno tutti col fiato sospeso. Lei, conscia del suo potere, della sua personalità che come una potente calamita attira tutti gli sguardi su di sé, rimane immobile ad ascoltare la musica, con gli occhi serrati, l'espressione intensa, le belle mani lungo i fianchi e una gardenia appuntata fra i capelli corvini. Poi la sua voce, come un velluto liquido, invade la sala. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Gli alberi del sud portano appesi strani frutti, sangue sulle foglie e sangue alle radici. Corpi neri ondeggiano nella brezza del sud, strani frutti pendono dagli alberi di pioppo. Strange Fruit è una canzone pericolosa. Colei che la sta cantando rischia molto, ma non le importa. Questo e altro ha passato nella sua vita e per una giusta causa il coraggio non le manca di certo. E questa è una giusta causa per lei che è afroamericana, perché Strange Fruit racconta la storia vera del linciaggio di due ragazzi neri ad opera di un gruppo di bianchi. Una canzone che è una denuncia contro l'America razzista di quegli anni e che a molti non piace. Lei che la sta cantando sfida il mondo con questa scelta che può costarle cara. Questa donna coraggiosa è la protagonista della nostra puntata dei Magnifici Destini di oggi. Il suo nome è Billie Holiday. I linciaggi erano stati uno scandalo nazionale per molti anni e facevano tuttora parte della cultura dei neri d'America. Tutti conoscevano qualcuno che era stato linciato o conoscevano qualcuno nella cui famiglia c'era stato un linciaggio. Billie era una persona assolutamente coinvolta nella politica, con una forte coscienza razziale e un senso dell'ingiustizia molto acuto. Sviluppò un'intensa relazione con la canzone Strange Fruit, e per questo rischiò lei stessa il linciaggio. Lo scrittore David Margolick sottolinea un aspetto fondamentale della vita di Billie Holiday, il suo impegno politico. In questa puntata cercheremo di conoscerla meglio, soprattutto cercheremo di andare a scavare nel suo essere una donna decisamente anticonformista e scopriremo una Billie Holiday un po' lontana dai luoghi comuni che la dipingono come vittima di una vita difficile. Comprendere appieno cosa stia provando in questo preciso momento, i sentimenti controversi che la percorrono mentre canta Strange Fruit al Café Society di New York, non è semplice. Occorre conoscerla bene, sapere quali esperienze abbia vissuto fino a questo momento. E allora lasciamola alla sua magistrale interpretazione e facciamo un salto ancora più indietro nel tempo. Conosceva le peggiori parolacce in almeno una quindicina di lingue diverse e le diceva a tutti quelli che passavano per la strada. Alcune volte qualcuno la prendeva e gliele suonava di santa ragione, ma lei continuava a farlo lo stesso. Il biografo Donald Clark racconta i primi anni di vita di Billie Holiday, una ragazzina nera e poverissima che vive nei quartieri periferici e malfamati di Filadelfia. La dipinge come una teppistella ribelle e dalla testa dura. La madre, Sadie Harris, una ragazza delle pulizie, ha solo 18 anni quando lei viene al mondo nel 1915, e il padre, Clarence Holiday, chitarrista, ancora meno, solo 16. Inutile dire che i due non si sposano, e la madre, per mantenere la figlia e forse anche un po' perché è quello che fanno tutte da quelle parti, diventa una prostituta. Billie cresce per la strada e si fa le ossa fin da piccolissima, è una tosta, non si fa intimidire da nessuno e soprattutto impara presto che è meglio se ci pensa da sola a se stessa. So the Bible said, and it still is news, mama may have, papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. La notte di Natale del 1926 è destinata a cambiare la vita di Billie Holiday. Nonostante la ricorrenza, sua madre, come al solito, non c'è. È sicuramente con qualche cliente, tornerà a casa più tardi. Benché abbia solo 11 anni, Billie è da sola, e quando il vicino di casa, Wilbur Rich, suona alla porta, lei ingenuamente gli apre. Al suo rientro, a notte inoltrata, Sadie scopre che Billie è stata violentata da quell'uomo. Non ci è dato sapere con esattezza quello che la ragazzina abbia provato, perché lei non ne parlerà mai volentieri. Ma di certo, quello che vive come un'ingiustizia ancora più grande della violenza è il seguito della vicenda. Lui fu condannato a 3 mesi di galera, ma io, che a regola ero la vittima, fui rinchiusa nella casa del buon pastore per ragazze di colore come me. Quelle suore non le sopportavo. Pensavano che fossi stata io, con il mio comportamento, a indurre il mio vicino a violentarmi. Pensa un po' che assurdità. Mi fecero talmente arrabbiare che scappai, ma loro mi ripresero. È una ribelle, va domata. Così pensa la madre superiore. The House of Good Shepherd è un convento per il recupero delle ragazze di colore che vivono per le strade, si prostituiscono, si drogano. Sono ragazze difficili, vanno trattate con fermezza. Per domare un osso duro come Billie, la madre superiore ne escogita una davvero macabra. Fa dormire la ragazzina per una notte intera in una cella dove giace una sua coetanea deceduta. Quella nottata con il cadavere, Billie non la dimenticherà mai per tutta la vita. Forse è un'esperienza ancora più dura della violenza sessuale. Quando finalmente viene rilasciata sulla parola dal convento, Billie non è più una bambina, è cresciuta di colpo. Mentre era via, la madre ha avuto una pensata delle sue. Vuole tentare la sorte altrove, provare a rifarsi una vita dove nessuno la conosce, né lei né tantomeno sua figlia e quella brutta storia della violenza. È così che Sadie e Billie partono alla volta di Harlem, il cuore nero di New York. Il numero 151 West della 140esima ad Harlem non è un bel edificio, fatiscente, maleodorante. È l'esatto specchio della sua proprietaria, Florence Williams. Una strana donna, sta pensando Billie mentre la guarda con interesse. Sua madre gliel'ha presentata come la loro nuova padrona di casa, ma a giudicare da come è vestita, o meglio da come non è vestita, è facile intuire la sua professione. In realtà è la tenutaria di un bordello dove Sadie inizia a lavorare immediatamente e dove dopo appena pochi giorni Billie, che ha ormai quasi 14 anni, viene avviata anche lei alla professione di prostituta. Eppure, anche in un luogo come questo, dove povertà e squallore generano un incredibile micidiale cocktail di infelicità, è possibile scoprire la bellezza. Billie sta ascoltando alcuni dischi che le ragazze mettono per intrattenere i clienti. E qui, in un oscuro bordello di Harlem, che per la prima volta in vita sua Billie Holiday ascolta Louis Armstrong, Count Basie, Bessie Smith. Harlem è un posto fantastico per chi come lei ama la musica, specialmente quel jazz che si sente suonare un po' ovunque. Organizzavano dappertutto feste private, una specie di gara musicale. Si pagava qualcosa all'ingresso mettendo gli spiccioli in una ciotola e una volta dentro ti poteva capitare di sentire Fats Waller e Duke Ellington che si sfidavano a suon di canzoni meravigliose. Alla fine il pubblico presente votava con gli applausi e quello che dei due vinceva si beccava The Joe Money, i soldi della porta. Trova nella musica il suo rifugio, la sua ancora di salvezza. Ascoltandola si sente bene, riesce a sopportare quella vita difficile che sta conducendo. È come passare più volte al giorno dall'inferno al paradiso con un biglietto di andata e ritorno che non scade mai. Anzi, a dire la verità, un giorno scade. Per l'esattezza, il 2 maggio del 1929, giorno in cui una retata fa chiudere le porte del bordello di Florence Williams per aprire quelle della Welfare Island di Manhattan, casa di reclusione e di lavori forzati, dove Sadie e Billy vengono rinchiuse per 100 lunghissimi giorni. Mentre si trova agli arresti, Billy, che ricordiamolo, ha solo 14 anni, prende una decisione. A lei piace il jazz, le piace cantare, e quando uscirà da lì farà quello che decide lei e non quello che le dicono di fare gli altri. Sarà una cantante. Beh, sai, c'erano alcuni artisti ad Harlem, cantanti, ballerini, performer, che giravano di club in club e si esibivano tutta la notte. Billy si unì a loro. Girava di tavolo in tavolo cantando sempre la stessa canzone, ma ogni volta in maniera diversa. Fu così che imparò ad improvvisare su una melodia sola in una quantità incredibile di modi differenti. Fu per lei un training eccezionale. Il biografo Donald Clark racconta l'esordio di Billie Holiday come cantante, sottolineandone la grande dignità. Coloro che si esibivano, uomini o donne che fossero, si sottoponevano infatti a una pratica umiliante. Non potevano prendere con le mani i soldi che venivano loro dati dai clienti, glieli infilavano addosso, spesso nelle parti più intime. Tutti accettavano questa sorta di svilimento della propria esibizione, tutti tranne Billie. Lei i soldi o li prendeva con le mani o piuttosto li rifiutava. È durante una di queste serate, forse al Mexico's o al Alhambra Bar and Grill, che Billy incontra suo padre, il chitarrista Clarence Holiday, che suona nella grande orchestra di Fletcher Henderson. Si parlano appena, in fondo non si conoscono, ma qualcosa, forse proprio la musica, li unisce con un filo invisibile che molti anni dopo tornerà inaspettato a riavvicinarli. Jumping and the cotton is high. Ci troviamo al Covens, un locale sulla 132esima West di Harlem. Billy sta cantando e improvvisa come al solito. Fra il pubblico siede un uomo che al sentirla resta di sasso. Questa sera è venuto per Monette Moore, una bravissima cantante jazz che doveva esibirsi lì ma che non si è sentita bene. E così c'è una ragazzina di 17 anni a sostituirla. A lui non è mai capitato in tutta la vita di ascoltare qualcosa di simile. Eppure non è proprio un pivellino, si chiama John Henry Hammond II ed è un produttore musicale, anzi in realtà è molto di più. Ricchissimo rampollo di una famiglia nobile e facoltosa, molto attenta ai diritti sociali e impegnata nelle lotte civili da molti decenni, Hammond è convinto del potere della musica di unificare le razze e le genti. No, io non ho mai avvertito nessuna linea di demarcazione nella musica. La musica è una musa universale e potente. E contribuire al riconoscimento della supremazia nera nel jazz è la forma di protesta sociale più efficace e costruttiva a cui potessi pensare. Hammond è un musicista illuminato. Fin da ragazzino, mentre i suoi ascoltano Bach, Beethoven, Vivaldi, oppure si dilettano con la superba voce di Enrico Caruso, che sua madre adora, lui scende negli alloggi della servitù nera ad ascoltare il jazz. E quella sera del 1932 al Covens di Harlem sta ascoltando qualcuno che gli ricorda quei vecchi camerieri che intonavano le canzoni dei loro padri, schiavi nelle piantagioni di cotone del sud. Quella ragazzina canta come se trattenesse dentro di sé tutta quella storia, tutte quelle genti e tutta la loro antica saggezza. So harsh, little baby, don't you cry. Hammond è strabiliato. Al termine della performance di Billy, la avvicina e le propone immediatamente di organizzare un debutto discografico insieme all'orchestra di Benny Goodman, del quale è produttore. Billy lo sta osservando. Quell'uomo è un giovanotto, non ha mica tanti anni più di lei, ma cosa pensa di prenderla in giro? E poi, Benny Goodman, mica ha detto uno qualunque. Però, non avendo nulla da perdere, accetta di incontrarlo alcuni giorni dopo nei suoi studi di registrazione. John Hammond è sicuramente un magnifico destino nella vita di Billie Holiday, colui che per primo la scopre e la trasforma in una cantante professionista. Ma in qualche modo anche lei rappresenta per lui un incontro decisivo. Il suo modo di cantare cambiò i miei gusti musicali e la mia intera vita, perché era la prima cantante nella quale mi fossi imbattuto che fosse un vero e proprio genio dell'improvvisazione. No one to talk with all by myself, no one to walk with but I'm happy on the show. Ain't misbehaving, I'm saving my love for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirt, it's just you I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving my love for you. Billie Holiday ha 18 anni quando nel novembre del 1933 debutta con l'orchestra di Benny Goodman e vengono rilasciati i suoi due primi singoli, Your Mother's Son-in-Law e Riff in the Scotch. John Hammond ha mantenuto la promessa fattale quella sera al Covans. Ora lei è una cantante vera, una professionista, il suo sogno si è avverato e di questo deve ringraziare solo se stessa, la sua determinazione e il suo amore incondizionato per la musica. John Hammond si rivela un produttore fantastico. Ha un'intuizione grandiosa. Billie è bravissima a improvvisare? Bene, le si deve dare carta bianca. Il fiorente nuovo mercato dei jukebox richiede produzioni agili, veloci, sempre nuove. E lo swing di Billie conquista immediatamente il pubblico. Le sue canzoni sono le più gettonate perché sono diverse. Anche i classici vengono riletti, reinterpretati e acquistano un sapore differente. E poi hanno un grande pregio. John Hammond, in qualità di produttore, ne deve tenere conto. Billie arrivava in sala di registrazione insieme a Teddy Wilson, uno dei più grandi pianisti swing che siano mai esistiti. Ah, a quei tempi non c'erano soldi da spendere per gli arrangiamenti. I musicisti arrivavano lì semplicemente portando se stessi e la propria arte. E nel tempo di una sessione portavano a casa una canzone. Ed era fantastica. Questo sistema ci permetteva di produrre a costi bassissimi. E fu in questo modo che riuscimmo a sopravvivere nei periodi in cui la crisi faceva fallire molti produttori. In un momento storico in cui quando un disco vende 3 o 4 mila copie viene già considerato un grande successo, Billie non scende mai al di sotto delle 5 mila copie e addirittura fa il botto con I Cried For You, che vende in una sola settimana la bellezza di 15 mila copie, un record senza precedenti. È nata una stella che porta sempre tra i capelli una gardenia bianca. Intensa, profondissima, unica. Ascoltarla è quasi come leggerle dentro e sentire con lei quell'emozione che racconta e che pare avere vissuto in prima persona. È così Billie Holiday, la protagonista dei magnifici destini di oggi. Una cantante che più che interpretare si confessa al suo pubblico. Billie non ha certo un'infanzia felice. Poverissima, nera, in un mondo comandato dai bianchi, violentata a 11 anni, prostituta a 13, condannata ai lavori forzati, ma non per questo domata. Perché in lei brucia un fuoco che alimenta la sua passione per la musica. È una cantante e nel bene e nel male lo sarà sempre. Ho sempre cantato fin da quando ero molto piccola. Cantavo mentre facevo qualsiasi cosa, ma mai mi sarei aspettata di poterci fare dei soldi da quel mio cantare. Non pensavo proprio di potermi mantenere, viverci, insomma. Poi qualcuno mi disse, ma sai cantare? Certo che so cantare, risposi. E da allora ho iniziato e, anche se mi pare strano, mi pagano per farlo. L'incontro disarmante di Billy con il produttore John Hammond la porta a registrare i suoi primi dischi da professionista. Ed è proprio durante una sessione di registrazione che il destino bussa ancora alla sua porta, ma questa volta per farle incontrare nuovamente qualcuno che sarà per lei qualcosa di speciale. Un amico fidato, un confidente per tutta la vita. Sassofonista incredibile, artista straordinario, considerato uno dei più grandi musicisti jazz di tutti i tempi. Stiamo parlando di Lester Young. Quando Billy lo vede in sala di registrazione, lo riconosce subito. Quel ragazzo era stato un affittuario di sua madre alcuni anni prima. Già allora aveva provato per lui una simpatia immediata, non toccata da interessi che non fossero quelli di una semplice ma profonda amicizia. Ritrovarlo lì e scoprire di poterci lavorare è per Billy un regalo dalla vita. Da questo momento le loro esistenze si intrecciano alle rispettive carriere. Lui le dà il soprannome che l'accompagna per gli anni a venire, Lady Day. Lei per contro lo chiama President. I due si aiutano, si sostengono a vicenda, amano le stesse cose, tra le quali purtroppo anche gli stupefacenti di cui fanno largo uso. Soprattutto, sono una sola anima che canta e suona contemporaneamente, come ricorderà Lester Young anni dopo. Ad ascoltare alcune vecchie registrazioni di allora, sembriamo le due parti di una stessa voce. E se non ci stai proprio attento, senti il suono di un'unica mente. My man don't love me. He treats me oh so mean. My man, he don't love me. He treats me awful mean. Lester Young rappresenta senza ombra di dubbio un magnifico destino nella vita di Billie Holiday per tutta la sua durata, influenzandone non solo la carriera ma di sicuro anche le scelte private. Amici per la pelle, compagni di bevute ma anche sostegno reciproco. Come quando nel 1937 il padre di Billie, Clarence Holiday, si ammala di polmonite fulminante e muore perché non trova in tempi brevi un ospedale disposto a ricoverarlo in quanto nero. Vicende all'ordine del giorno, in anni in cui il razzismo è ai suoi massimi livelli, ma che quando ti toccano, ti trasformano e dopo non sarai mai più la stessa persona. Billy sta pensando a suo padre, non lo ha mai frequentato. In fondo si può dire che non si conoscano nemmeno, ma è sempre suo padre. E il pensiero che non gli sia stata data la possibilità di curarsi solo perché è di colore la fa imbestialire. Esatto, è arrabbiatissima e da questo momento il suo impegno nei confronti della causa antirazzista diviene costante. A questo si aggiunge un altro fatto che ferisce il suo orgoglio già dolorante. Lei e Lester partono per una importante tournée con la band di Count Basie. Le band nere non potevano dormire negli hotel. Dovevamo farci ospitare dalle famiglie di colore nelle diverse cittadine dove tenevamo gli spettacoli. Non potevamo mangiare dove mangiavano i bianchi. Avevamo i nostri ristoranti o al massimo si mangiava nel retro degli alberghi. Non potevamo nemmeno andare al bagno dei bianchi. Era una cosa degradante. Ma c'è anche da divertirsi, e parecchio. Sono anni in cui le band nere si sfidano in lunghi e agguerriti duelli musicali e tra la gente c'è un tifo paragonabile a quello che oggi viviamo nel calcio. Tiene Count Basie non andrebbe mai ad ascoltare il suo acerrimo rivale, Chick Webb. Ambedue le band hanno una punta di diamante. Da un lato Billie Holiday, dall'altro una ragazzona di appena 20 anni con una voce da paura. Si chiama Ella Fitzgerald. I get too hungry for dinner at 8. I like the theater, but never come late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a trash. Billy contro Ella, Holiday contro Fitzgerald. C'è perfino chi scommette sulle loro performance. Chi giura e spergiura che le due cantanti si odiano e se si incontrano per la strada si accapigliano. In realtà non c'è niente di vero, ma questa rivalità tra le band crea rumore e porta pubblico nei locali. E soprattutto fa salire le quotazioni delle cantanti, tanto che presto Billy riceve una proposta davvero interessante e soprattutto rivoluzionaria. Artie Shaw, il clarinettista per eccellenza, compositore a capo di una delle band più chic, più ambite dell'epoca, tutta composta solo ed esclusivamente da elementi bianchi. È proprio lui, in persona, che contatta Billie Holiday nel febbraio del 1938. La vuole come sua cantante. Billie è davvero stupita, ma lo sa questo signore che lei ha la pelle nera? Lo sa, e la vuole con sé proprio per una tournée che attraverserà tutti gli stati del sud. Beh, non c'è che dire. Artie Shaw ha coraggio e il coraggio va premiato. Così la pensa Billy ed è per questo che accetta la sua proposta. Me ne pentii amaramente quasi subito. Una delle prime sere mi fu detto che non potevo sedermi nello spazio riservato agli altri membri della band perché ero nera. RJ si arrabbiò moltissimo. Disse che mi voleva lì con gli altri e che non c'era storia. Alla fine mi fecero sedere con gli altri, ma io mi sentii morire. Avrei voluto spaccare tutto e andarmene, altro che cantare. Vuole spaccare tutto, ma alla fine rimane. E nel giro di alcuni mesi affina la sua tecnica in maniera straordinaria. Artie Shaw è un mentore incredibile per Billy, un altro magnifico destino nella sua vita. Ha stile, una finezza tutta particolare e una scelta attenta del repertorio. I giornali parlano ben presto di una nuova Billie Holiday, più matura, più consapevole. And any old thing you do, I'll see you through. So just remember that I am waiting there. If ever you want me, I'll be near. Any old time and any place where you may be. Una serie di concerti negli stati del sud, una band di grande livello, un capo come Artie Shaw, bello, elegante, famoso, sempre rigorosamente vestito in smoking, canzoni di grandissimo successo, uno show strabiliante, tutto perfetto, tutto tranne un particolare che si chiama Billie Holiday. Una cantante nera là dove i neri non possono entrare, là dove non possono mangiare con i bianchi, mischiarsi a loro. È qualcosa di impensabile, un affronto che precede la band nei suoi spostamenti con una fama decisamente negativa. Poi l'evento decisivo, come ricorda lo scrittore David Margolik. Avevano un concerto a New York, nell'Hotel Lincoln. Era il novembre del 1938. Billy era già allo stremo della sopportazione. Le fu detto che doveva prendere l'ascensore di servizio, quello della servitù, perché era nera e i clienti bianchi avrebbero potuto essere disturbati dalla sua presenza sul loro ascensore. Probabilmente fu la goccia di troppo. Lasciò immediatamente l'hotel e anche la band. Billy la ribelle, Billy la dura che non cede. La stessa Billy che anni prima, appena adolescente, decide di sfidare la sorte, quella vita già segnata fatta di miseria, soprusi e violenza. Decide che non ci sta e che prende il timone della propria esistenza ancora una volta. Un gesto che le regala una notorietà assoluta. Artie Shaw, colui che la sceglie nera tra i bianchi, le regala un'opportunità unica, quella della ribellione eclatante. Un gesto davanti agli occhi di tutti che la trasforma in un'eroina per i neri e in una condanna vivente per i bianchi. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. I magnifici destini. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Al Café Society di New York, nel Greenwich Village, decine di occhi sono puntati su una gardenia bianca. Billie Holiday, la protagonista dei magnifici destini di oggi, ne appunta sempre una tra i capelli. È il suo segno di riconoscimento. La giovane donna sta cantando Strange Fruit, una vera e propria denuncia antirazzista, scritta dal poeta Abel Meeropol in seguito al linciaggio di due giovani neri dell'Indiana, Thomas Shipp e Abram Smith, accusati di omicidio. Billy sa che sta rischiando molto. Lei stessa ha subito delle intimidazioni. Le è stato caldamente consigliato di non cantare quel brano, che accusa apertamente i bianchi di giustiziare i neri senza un processo, ma lei disobbedisce. È una costante della sua vita. E poi in questo preciso momento sta pensando a suo padre. Non nego che un po' di timore l'avevo. Certi tipaci erano venuti nel mio camerino e mi avevano consigliata di non cantare Strange Fruit. Ma io la cantai lo stesso perché mi vedevo sempre davanti mio padre. Nessun ospedale l'aveva voluto ricoverare quando si era ammalato di polmonite, perché era un nero ed era morto così, senza cure. Questa cosa io non potevo sopportarla. Dovevo fare qualcosa anch'io. Il Café Society è un club assolutamente unico nel suo genere. Il proprietario Barney Josephson lo ha inaugurato da poco e ne vuole fare il primo locale di integrazione razziale, dove in nome della musica più universale che esista, la musica, tutte le razze possano ritrovarsi e vivere un'esperienza libera da qualsiasi forma di pregiudizio. Billie Holiday è la cantante giusta per questo tempio dell'integrazione. Ribelle, incapace di accettare i compromessi, la giovane ha appena lasciato uno dei gruppi musicali più famosi d'America, quello di Artie Shaw, prima band di bianchi in assoluto ad avere come cantante solista una nera. Non sopporta i pregiudizi che accompagnano le sue performance in giro per il paese e decide di esibirsi d'ora in poi come solista. E quella di stasera con Strange Fruit è la sua personalissima dichiarazione di indipendenza. Citata addirittura sul Time Magazine per il suo coraggio, Billie raggiunge un grado di popolarità altissimo. Tutti i suoi dischi sono delle hit. I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. What would you do? And so all else above, I'm dreaming of the man I love. Anticonformista sul palcoscenico come nella vita, Billie Holiday fa scalpore. Sessualmente molto disinibita, ha relazioni sia con uomini che con donne famose, da Orson Welles all'attrice Tallulah Bankhead. Ma soprattutto è nota per la sua dipendenza da alcol e droghe di ogni genere, come racconta il suo biografo Donald Clark. Una volta il grande Charlie Parker andò a trovarla in albergo. Lei si stava preparando una dose di cocaina e per non farsi scoprire la nascose sotto il letto. Mentre chiacchieravano in salotto, i due videro arrivare il cane di Billy e il suo magnifico boxer Mister. Era tutto stranito e stava male. Perché aveva leccato quella polvere bianca sotto il letto? I successi di Billie si alternano a momenti di grande depressione. Si sposa, ma non riesce ad avere figli e questo è forse uno dei dolori più grandi della sua vita. La chiamano sul set del film New Orleans. Sarebbe una grandissima e meravigliosa esperienza per lei, che sogna il cinema, ma scopre poi con disappunto che la sua parte è quella di una cameriera di colore. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? And there's something more, I miss the one I care for, more than I miss New Orleans. Il problema della tossicodipendenza di Billie sta diventando drammatico e incide non solo sulle sue finanze, ma anche sulla puntualità e sulla resa al lavoro. Ormai tutti sanno di questo suo problema e lei si aspetta una soffiata prima o poi. E infatti una sera, dopo uno spettacolo a Filadelfia, Billie è appena rientrata in camerino quando sente bussare alla porta. Sono alcuni poliziotti che iniziano una perquisizione accurata. Dentro un paio di calze di seta della cantante trovano una notevole quantità di droga e le porte del carcere si riaprono per Lady Day. Per un anno e un giorno rimane rinchiusa nel penitenziario femminile di Alderson in West Virginia. Mentre si trova in carcere, il suo pensiero costante è il dopo. Senza la New York City Cabaret Card, il documento che tutti i performer devono possedere per poter lavorare nei locali che vendono alcol e che le è stata ritirata, è destinata a fare la fame. E lei di soldi da parte non ne ha. Si è fatta fuori tutti i suoi seppur lauti guadagni con la droga. Ma quando esce dal carcere nel marzo del 1948 ha una sorpresa. I suoi manager le hanno organizzato un concerto alla prestigiosa Carnegie Hall. Billie esita, sta pensando, ma la gente ci verrà a sentirmi dopo che sono stata in galera? Il suo biografo Donald Clark ricorda quell'evento unico. Ci fu il tutto esaurito, con 2700 biglietti venduti in prevendita, un fatto mai accaduto prima. Billie era molto nervosa, tanto che, appuntandosi la solita gardenia tra i capelli, si ferì in maniera piuttosto seria ed arrivò sul palcoscenico sanguinante. Fu un trionfo. Un trionfo che non cambia la vita di Billie. Alcol e droga e uomini sbagliati che la picchiano sono cattivi compagni di viaggio per lei, che però non sa farne a meno.